di panna montata, tutta contenta di non essere stata mangiata, ma ho già deciso che questa è l'ultima volta che esco con te. Io ti ho dato il mio cuore, che cosa mi hai dato tu? Mi hai fatto solo promesse e niente di più. Quando c'è il sole tu parli d'amore, poi quando è sera sei una statua di cera, ma ho già deciso che questa è l'ultima volta che esco con te. Ho già deciso che questa è l'ultima volta che esco con te. L'ultima volta che esco con te.